Un modo per capire cosa potrebbe accadere sui mercati è andare indietro al terremoto di Kobe nel 1995. E la cosa interessante è che allora, quando la borsa ha riaperto, il Nikkei è calato più o meno come oggi, intorno al 6%. Ma dopo un paio di settimane c'era stato un rimbalzo, anche se era ancora sotto del 3% rispetto al periodo prima del terremoto. Ma credo di non sbagliare dicendo che questa volta l'impatto potrebbe essere maggiore, semplicemente perché la portata sia della perdita di vite umane che dal punto di vista economico sembra crescere con l'andare del tempo. E certamente una grande incertezza circonda la situazione dei reattori nucleari. Per ciò che riguarda l'impatto sull'economia, pensiamo che le conseguenze maggiori sul PIL saranno nel secondo trimestre dell'anno. Crediamo che intorno all'estate o l'autunno l'effetto complessivo peserà intorno all'1% del PIL. Da lì in poi, invece, il tasso di crescita andrà nella direzione contraria, perché si farà sentire la spinta degli investimenti per la ricostruzione ed entreranno in gioco le misure di stimolo da parte del governo. Quindi, verso la fine dell'anno, la crescita sarà positiva e il prossimo anno vedremo un totale recupero delle perdite. Ma ci vorrà molto tempo, perché il colpo è stato molto duro anche per il potenziale produttivo del Giappone.